cortesano per l'uomo a calafiare, ed ogni donna disperata piangerà perché non sa che fare per tirar da te. Un po' di rampampam, un piccolo rampampam.